GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Allineiamo la giornata del Pride, tanta musica dal vivo al Parco del Mare in attesa della sfilata in Viale Europa nel pomeriggio. Per la serata confermato l'intervento dell'attivista palestinese Karem Rouhana. Il settore manifatturiero nel secondo trimestre è in ripresa dell'8%, a certificarlo Confindustria FVG. Il cantiere dell'ex fiera di Trieste potrebbe ripartire a breve. Il 2 ottobre una conferenza dei servizi sulle opere accessorie richieste dal comune che dovrà realizzare il committente dovrebbe accendere la luce verde. Manutenzione dell'impianto idrico pressoché inesistente al reparto radiologia di San Vito, dove un operatore ha rischiato di essere colpito dall'intonaco staccatosi dal soffitto ammollato dalle continue perdite d'acqua. Situazione inaccettabile per l'incolumità delle persone, denuncia la UIL. Ammonito dal questore già nelle settimane scorse per maltrattamenti nei confronti del padre, un triestino di 42 anni ha picchiato l'anziano genitore e si è quindi scagliato contro gli agenti che lo hanno arrestato. Udine estende l'esperienza dei tutori di strada. Dopo l'esperienza dei fine settimana estivi, saranno nuovamente impegnati in autunno per la fiera di Santa Caterina e durante i periodi di shopping. Coppia aperta, quasi spalancata, la commedia di Dario Fo e Franca Rame diventa un film con Chiara Francini che questa sera, dopo gli applausi al Festival del Cinema di Venezia, sarà a Pordenone per l'unica proiezione in anteprima della regione. L'abbiamo intervistata. A Trieste centinaia di ragazzini in piazza Sant'Antonio per le finali del torneo Don Marzari di mini basket. Buongiorno da Francesca Terranova e Nada Cioc. Andiamo a Lignano, al Parco del Mare, perché è già iniziata la festa del Pride con tanta musica dal vivo. Il clou della giornata, la sfilata pomeridiana dal Pala Pineta, seguirà un percorso circolare lungo Viale Europa. Sentiamo. Si annacquano nei colori arcobaleno del Pride Village, nei sorrisi di chi è già arrivato a Lignano Sabbiadoro, le polemiche politiche che hanno preceduto, come ogni anno, l'FVG Pride. Il Pride crea sempre polemica, ma basicamente perché è ancora un tema tabù il parlare della sessualità e quando i diritti sono legati alla sessualità delle persone continua a essere un tema che crea polemica a livello mediatico. Tra gli stand, accanto all'area concerti, c'è anche il banchetto del centro antiviolenza di Pordenone Tolmezzo. Siamo qui anche per questo, per ricordare che la violenza c'è in ogni coppia, in ogni genere di coppia, sicuramente collegata a una società patriarcale che noi riconosciamo, che noi vediamo, su cui bisogna fare molta sensibilizzazione. Poco distante il gazebo dell'associazione di genitori, parenti, amici e amiche di persone lesbiche, gay, trans e bisessuali. Anna Masutti, presidente dell'associazione Agedo di Udine. Se le famiglie poi riescono a fare il salto ed accogliere questa nuova così situazione, è la politica che è un pochino indietro, no? Quindi il problema che si pone è quello di poi garantire ai nostri figli e alle nostre figlie i diritti che hanno tutti. 36 le associazioni aderenti, 11 i comuni, non i più grandi, collettivi studenteschi e la CGL. 6 i carri che sfileranno nel percorso ad anello dalle 16. Il sostegno alla causa palestinese, esplicitato nel manifesto, uno degli argomenti più contestati da chi ha scelto di non aderire o negare il patrocinio. Keshet Italia, organizzazione queer italiana ebraica, ha emesso un comunicato per denunciare il clima di ostilità verso la comunità. Gli organizzatori rimandano al mittente ogni accusa di antisemitismo. Alice Chierottini, presidente di FVG Pride. Non retrocederemo di un passo su questa posizione e per questo motivo il super ospite di quest'anno di FVG Pride è proprio un ragazzo italo-palestinese molto esperto di questione palestinese e proprio di questo ci parlerà qui sul palco del Village. Lignano Sabbiadoro, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Segnali estremamente positivi nel secondo trimestre dal manifatturiero, a dirlo Confindustria Friuli Venezia Giulia. La produzione industriale ribalta l'andamento dell'inizio dell'anno, passando da un meno 1,2% a un più 8,8%. Meglio ancora le vendite, dal meno 3,6% al più 7,5%, trascinate dal mercato estero. E aumenta significativamente anche l'occupazione, in crescita rispetto al primo trimestre dell'anno, pure i nuovi ordini. Sono le note liete dei dati industriali nel secondo trimestre del 2024 diffusi da Confindustria Friuli Venezia Giulia. La strada è quella giusta, commenta il presidente Zamò. Le imprese regionali stanno dimostrando una notevole capacità di adattamento alle mutevoli condizioni del mercato. Occorre proseguire in questa direzione, dice, puntando su nuove tecnologie, sostenibilità e sviluppo del capitale umano. La strada da compiere viene segnalata dal rapporto con lo stesso periodo dell'anno scorso. I principali indicatori tendenziali evidenziano infatti ancora un segno meno nell'andamento della produzione, del 2,6%, che nel 2023 era di oltre il 10%. Ancora in negativo anche le vendite globali, trascinate dal decremento delle vendite sul mercato nazionale, ma la luce in fondo al tunnel c'è ed è rappresentata dai nuovi ordini che rispetto allo scorso anno crescono del 2,5%. Per il terzo trimestre dell'anno, Confindustria prevede una stabilizzazione dell'andamento della produzione industriale, un assestamento della domanda interna ed estera e una occupazione stabile. Andrea Covre, TGR Friuli Venezia Giulia. Infiltrazioni d'acqua dovute a una cattiva o pressoché assente manutenzione dell'impianto idrico nelle stanze di radiologia all'ospedale di San Vito ha portato alla caduta dell'intonaco dal soffitto di una stanza, creando una situazione potenzialmente pericolosa. Un operatore ha rischiato di essere colpito da pezzi di controsoffitto nei giorni scorsi. La denuncia arriva dalla UIL, che definisce le condizioni di radiologia a San Vito disastrose. Non sono servite le segnalazioni sollecite all'ufficio tecnico. Dopo mesi e mesi di sopravvivenza e disagio per gli operatori per le continue perdite d'acqua dagli impianti, qualche giorno fa anche la caduta dell'intonaco. Una situazione inaccettabile sia per l'incolumità degli operatori che per quella degli utenti, scrivono in una nota i sindacalisti della UIL chiedendo l'immediato intervento dell'azienda. Boom di certificati medici tra i lavoratori del Friuli Venezia Giulia, più 183.000 nel 2023 rispetto a 7 anni fa. Dei quasi 650.000 certificati medici presentati, l'80% arriva da dipendenti privati. Se consideriamo che i dipendenti pubblici e privati in Friuli Venezia Giulia sono 464.000, è come se ogni lavoratore avesse presentato un certificato di malattia e mezzo nel corso del 2023. Il proliferare dei certificati medici in forte aumento in tutte le regioni, sia tra i dipendenti pubblici sia fra i privati. Questi i dati INPS relativi al 2023 analizzati dalla CGA di Mestre, Associazione Artigiani e Piccole Imprese. Dal report emerge anche il fatto che ci si ammala più spesso, ma si guarisce con un giorno e mezzo di anticipo in media rispetto a 7 anni fa. Infatti ora i giorni di malattia richiesti in media all'anno sono 9 in Friuli Venezia Giulia, mezza giornata in più rispetto al dato medio nazionale. Il comprensorio dell'ex fiera di Trieste appare un cantiere fermo da anni ormai, nonostante le rassicurazioni del proprietario, un immobiliarista di Klagenfurt in Austria, che il faraonico centro commerciale si realizzerà con tutte le modifiche alla viabilità imposte dal comune. Il 2 ottobre la conferenza dei servizi decisoria si esprimerà sulle opere accessorie. Tutto fermo da anni, immobile nel cemento nudo dei padiglioni di quella che fu la Fiera di Trieste. Tutt'attorno la vita del quartiere di Montebello, che si chiede cosa ne è del famoso progetto austriaco di rigenerazione urbana. Qualcosa starebbe per muoversi, il condizionale è d'obbligo in queste situazioni. In ottobre un appuntamento fondamentale nel futuro del progetto, ce lo conferma l'architetto Francesco Morena, che segue la progettazione per conto del committente, la proprietà austriaca di Walter Moss, e oggi ci mostra l'interno dell'immensa area. Abbiamo avuto già da Ferragosto la comunicazione che è stata convocata la conferenza decisoria dei servizi, che sarà tenuta il 2 ottobre. Questa conferenza sta nel nome e finalmente deciderà di far approvare questo progetto che ha avuto un suo iter molto lungo e complesso. All'interno dai capannoni è stato asportato l'amianto, il prossimo passo sarebbe l'abbattimento di tutti gli edifici. Nel futuro ben più di uno shopping center, un polmone anche di verde urbano. Urbano al servizio di un quartiere da oltre 50.000 abitanti, negozi, uffici, strutture medicali, palestre e, sotto, un parcheggio a 2 piani da 2.000 posti. Enorme il valore dell'investimento, 17 milioni già spesi per l'acquisto dell'area, circa 60 ancora per le realizzazioni, di cui una decina in opere di urbanizzazione, che modificheranno l'intera area fino a Piazza Foraggi e prevedono un parco su quella che oggi è la spianata di asfalto di Piazzale De Gasperi, una rotonda a monte dove l'attuale incrocio fra via Rossetti e via Revoltella introdurrà ad un giardino che farà da tetto alla nuova futura struttura. Trieste, Antonio Caiazza, TGR Friuli Venezia Giulia. Un uomo di 42 anni, triestino, ubriaco, prendeva pugni e sberle il padre. Sono intervenuti su segnalazione dei vicini gli agenti della Volante di Trieste in un appartamento di Viale Campi Elisi. È successo martedì sera. Gli agenti hanno faticato a entrare in casa perché il figlio ha aggredito anche loro nel tentativo di opporsi al loro ingresso. Una volta immobilizzato l'aggressore e prestato i primi soccorsi al padre, ferito alla testa, gli agenti hanno arrestato il figlio per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e maltrattamenti contro familiari. Non era la prima volta del figlio. A luglio era già stato ammonito dal questore di Trieste per aver picchiato il padre. Ora è in carcere al Coroneo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Arrestati a Udine dalla polizia due cittadini marocchini senza fissa dimora, colti in flagranza di reato all'interno di un'abitazione in via Cividale dove si erano introdotti furtivamente. La segnalazione al numero unico da un residente, allarmatosi per aver sentito in piena notte dei rumori di vetri infranti ed accortosi della presenza di qualcuno che si aggirava nell'edificio vicino. Gli agenti della squadra volante sono entrati nell'abitazione, sfitta al momento ma completamente arrestata. Hanno individuato i due uomini che erano entrati rompendo una finestra. Considerati i gravi indizi di reità emersi a carico dei due uomini, entrambi già aggravati da numerosi precedenti, sono stati deferiti all'autorità giudiziaria. Il GIP ha convalidato il loro arresto a carico di uno dei due stranieri. Il questore ha emesso un decreto di espulsione. Il servizio dei tutori di strada, introdotto in via sperimentale a Udine, sarà confermato anche in altri periodi dell'anno. In particolare la giunta comunale ha deciso di estendere il presidio ad alcuni specifici luoghi della città durante l'autunno e l'inverno. Il programma verrà finanziato con contributi ministeriali inseriti nel Fondo Unico Giustizia, dal quale l'amministrazione ha ottenuto un finanziamento da circa 84.000 euro. Il progetto si inserisce nel protocollo di sicurezza partecipata, oggetto dell'intesa tra Prefettura e Comune di Udine, e rinnova l'intervento degli operatori, in particolare nei fine settimana dei mesi di novembre e dicembre. Le zone interessate dai presidi saranno il centro storico durante il mese di Natale, Borgo Stazione in tutti i weekend di novembre e dicembre, Piazza Primo Maggio durante le festività di Santa Caterina e la zona del parcheggio dello stadio durante il Luna Park. Gli street tutor, riconoscibili e dotati di pettorina, non svolgeranno funzioni di ordine pubblico, ma agiranno esclusivamente come mediatori e informatori, collaborando strettamente con la prefettura, questura, comando dei carabinieri e polizia locale, spiega l'assessora alla sicurezza Toffano. Sciopero della polizia locale del comune di Udine, proclamato dalla UIL funzione pubblica per il 22 settembre. I motivi che portano ad indire l'astensione dal lavoro sono la liquidazione delle indennità di ordine pubblico per il servizio svolto nel secondo semestre del 2021, la corresponsione degli importi del servizio esterno da gennaio ad oggi con successivo conguaglio e la cumulabilità delle indennità. I dati dei controlli disposti dalla Questura di Trieste nel fine settimana contro la guida in stato di ebbrezza o con uso di stupefacenti sono stati sottoposti a controlli chilometrici 87 conducenti e sono state accertate 11 violazioni. Agli 11 automobilisti sono state ritirate le patenti. Un veicolo è stato sottoposto a sequestro per la confisca. La barca Blue Panda del WWF, appena ormeggiata sulle rive, è l'ambasciatrice dell'importanza della tutela del mare e delle sue specie più vulnerabili, a partire dagli squali, animali ai quali è dedicato un focus in questa settimana della presenza della Blue Panda. Ma anche i cetacei, che nonostante la loro imponente mole, non sono invincibili, come ha dimostrato il caso della balena comune rinvenuta ieri a Muggia. Un mare in crisi, il Mediterraneo, come lo sono quelli di tutto il mondo. La Blue Panda, la barca vela ambasciatrice del WWF, è approdata a Trieste per diffondere una cultura che possa raggiungere l'obiettivo del 30% di oceani protetti. Arriva il giorno dopo che una balenottera è stata rinvenuta morta sul fondale del Porto San Rocco a Muggia, con le pinne tranciate, un segnale d'allarme, l'ennesimo, del mare. Giulia Prato, responsabile mare WWF Italia. Una delle cause principali della morte delle balene ottere in Mediterraneo è proprio quella delle collisioni con le navi, con le grandi navi. Non è solamente questo, ci può essere anche una causa dovuta all'ingestione nel tempo e l'accumulo di plastica e di microplastica, che può provocare tanti danni al funzionamento dell'organismo. Anche il riscaldamento delle acque può sicuramente avere influenzato, perché potrebbe avere influenzato la disponibilità anche del krill, del plancton di cui si nutrono le balene. La Blue Panda da aprile a novembre è impegnata nell'esplorazione di coste e mari, toccando 6 paesi del Mediterraneo e navigando per oltre 5.500 miglia nautiche: Francia, Grecia, Turchia, Italia, Croazia, Albania. Fino al 5 settembre, insieme all'area marina protetta di Miramare, la barca sarà protagonista di eventi per promuovere la difesa degli squali in Adriatico, la piccola pesca e il consumo sostenibile. Mostre, ma anche giochi per i più giovani, proiezioni, pulizia dei fondali, sea watching, tutto in 6 luoghi diversi della città, a partire dal punto di approdo della barca a vela, il Molo Audace. Squali e razze, che sono a rischio di estinzione, quindi è necessario lavorare tutti insieme con i pescatori, le autorità del controllo, i consumatori, tutta la filiera della pesca e i ricercatori, per trovare insieme delle soluzioni per salvaguardare queste specie. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il tempo, il cielo è sereno su tutta la regione, le temperature alle 11. A Trieste 29,5 gradi, il mare è poco mosso con una temperatura di 28. A Gorizia 32,5, a Udine 32 gradi, a Pordenone 31,5. Forni di Sopra 26 gradi, a Tolmezzo 25,5 decimi e a Tarvisio 25 gradi, su Piancavallo 22,5 e a Sappada 18,5. In montagna sul Monte Lussari 18,5 gradi, sullo Zoncolan 17,5 decimi, a Lignano sulla costa abbiamo 28 gradi, a Grado 28,5, la temperatura del mare in entrambe le località è di 28 gradi. Oggi pomeriggio cielo sereno poco nuvoloso per velature anche consistenti, sulla zona montana possibili brevi rovesci, isolati temporali pomeridiani, specie al confine con il Cadore e al confine con la Slovenia, venti di brezza, farà caldo con temperature di oltre 5 gradi sopra la norma del periodo. Coppia aperta, quasi spalancata, è il titolo del film d'apertura delle Giornate degli Autori a Venezia, tratto dall'omonima opera scritta da Dario Fo e Franca Rame nel 1983. Alle 18.30 l'attrice Chiara Francini sarà ospite a Cinema Zero di Pordenone per presentare al pubblico quest'opera, di cui è anche produttrice. La regia è di Federica Di Giacomo. Al centro uno dei temi più attuali di sempre, l'amore di coppia e l'amore nella molteplicità. Sentiamo la nostra intervista. Questo testo di Franca Rame e Dario Fo è un classico, e proprio perché è un classico è molto attuale. Racconta la storia di Antonia, questa moglie devastata, tradita dal marito, alla quale a un certo punto il marito propone di spalancare la coppia soltanto per poter fare il proprio comodo. Nel film ho trovato interessante vedere che cos'è oggi dopo 40 anni. Esiste la coppia aperta, quasi spalancata? E quindi io, monogama un pochino azzoppata, mi sono addentrata in queste altre modalità diverse da quelle della monogamia che ci sono oggi. Quindi sono andata nei circoli poliamorosi, sono andata a parlare con il poliamoroso più vecchio d'Italia, Carlo Consiglio, 96 anni e 3 fidanzate, sono andata a dibattere con le femministe, e quello che mi è venuto fuori è un affresco di questa umanità che in qualsiasi modo e dalla notte dei tempi cerca così fortemente di trovare un modo, di trovare la strada per agguantarlo questo amore, e tutti i modi ho visto sono giusti e sono sbagliati, però l'importante, senza ledere la libertà altrui, è basta che funzioni. Com'è andata a Venezia? È andata benissimo, è stata un'emozione incredibile, hanno dovuto aggiungere delle sale perché la proiezione ufficiale non bastava a contenere le persone che volevano vederlo. Le critiche che ho letto sono veramente buone, questo veramente mi commuove, sono incredibilmente felice della risposta del pubblico. A proposito del pubblico, per chi è già stato a vedere a teatro la sua copia aperta quasi spalancata, sarà una sorpresa o un déjà vu il film? Sarà una sorpresa, c'è ovviamente quello che è il cuore dello spettacolo, ma è assolutamente, sarà una grossa sorpresa. Centinaia di ragazze e ragazzi impegnati in piazza Sant'Antonio a Trieste per il trofeo di mini basket Don Marzari. I primi a scendere in campo per la finale del 29esimo torneo nazionale Don Marzari sono i ragazzi e le ragazze dell'Interclub Muggia e del Poletti Adran. C'è ancora ombra in piazza Sant'Antonio e non fa tanto caldo, una condizione che agevola un gioco dinamico e non privo di azioni interessanti. Trionfa Muggia, ma il torneo Don Marzari non è solo la vittoria che conta, ma il saper fare squadra, scoprire nuove amicizie e divertirsi insieme nel segno dello sport. Franco Cumbat, direttore sportivo del Centro di basket azzurra. Questo è lo spirito del circuito PSG, che è un torneo nazionale, è un circuito nazionale a cui partecipano squadre di tutta Italia. La cosa più bella secondo me, che è nata sì 29 anni fa, è proprio questa modalità di ospitalità di alcune squadre, due per precisione, cioè Varese e Padova, che sono ospiti delle tre società nostre triestine, cioè l'Arcobaleno, l'Azzurro e Tigrotti, che ospitano questi ragazzini nelle proprie famiglie e si crea un'amicizia, un rapporto che spesso dura per tantissimi anni. Sono 14 le squadre della categoria esordienti, anni 2013-2014, provenienti da tutta Italia, che partecipano al torneo organizzato dal Centro Mini Basket Azzurra Repubblica dei Ragazzi. La finale è preceduta dalla fase delle qualificazioni, che si è giocata nei giorni scorsi, da mercoledì, presso i campi all'aperto della base logistica militare di Lazzaretto e Punta Sottile, dove tra una partita e l'altra ci si poteva concedere un bel tuffo rinfrescante in mare. Una manifestazione che ormai ha una sua tradizione ben consolidata negli anni e che si sta preparando a celebrare l'anno prossimo il suo 30° anniversario. Trieste, Vaciuk, TGR Friuli Venezia Giulia. In Serie C, prima trasferta di stagione per la triestina questa sera a Legnago contro la Clodiense, allenata dall'ex alabardato Andreucci. Inizio alle 20:45. Mister Santoni, è chiaro, dobbiamo riconfermare quanto di buono abbiamo fatto nell'ultima gara. La Clodiense è un altro avversario rispetto all'Arzignano, gioca con un sistema diverso e quindi dovremo fare altri movimenti. Basket per Pallacanestro Trieste, prima partita di precampionato a un mese dall'inizio del campionato vero. Questa sera la squadra di coach Christian gioca a Castelfranco Veneto contro la Vanoli Cremona. Un ottimo test per comprendere a che punto è la preparazione della squadra, che ieri ha avuto la conferma che il trentenne Francesco Candussi sarà un giocatore della Pallacanestro Trieste. Nuova partita test anche per la Gesteco, che questo pomeriggio gioca contro Reier Venezia a Falcade. Gran finale oggi per il 37esimo rally di Piancavallo, con 5 tratti cronometrati in programma, dove sui 25 chilometri del tratto della prova di Pradis Grotte si decideranno gli ordini di arrivo prima della bandiera a scacchi in Piazza Italia a Magnago, prevista per le ore 18:30. Due ori con un primato mondiale, tre argenti e quattro bronzi illuminano la seconda giornata dei mondiali di nuoto per salvamento in Australia sulla Gold Coast, scatenato Francesco Ippolito. Il tesserato per Gorizia Nuoto, già oro nei 100 misti Rescue, prima domina i 200 Super Lifesaver, di cui è primatista mondiale, chiudendo in 2 secondi 0,5 centesimi davanti all'australiano James Cook e l'altro azzurro Fabio Pezzotti. Poi Ippolito trascina la staffetta 4x25 Manichino, che stabilisce il primato mondiale in 1 secondo e 3 decimi con Fabio Pezzotti, in 1 minuto e 3 secondi con Fabio Pezzotti, Simone Locchi e Davide Cremonini, demolendo il precedente record che era della Germania del 2017. Infine altri due bronzi per Ippolito nei 50 trasporto Manichino e nella staffetta maschile 4x50 mista. Ritorna dopo la pausa estiva la nostra rubrica sull'agricoltura Vita nei Campi, in onda domani dopo il GR delle 8:30. Sentiamo le anticipazioni. Vita nei Campi, il settimanale radiofonico dell'agricoltura della nostra redazione, in onda la domenica alle 8:50 su Radio 1 Rai, domani in apertura lo scenario economico in cui si inquadrano le nuove vendemmie. A seguire la storia di Angelo Floramo, che ci descrive il microcosmo che gravitava intorno alle vecchie latterie sociali turnarie di paese. Nuova rubrica poi sulla meccanizzazione in agricoltura tra la zappa e i robot. E ancora il programma di trasmissione 2024-2025 per il nuovo corso degli interventi del sommelier, una conserva classica della stagione che è quella della passata di pomodoro, e se volete avere un giardino a bassa manutenzione dovete affidarvi alle perenni, i consigli. In conclusione, andamento dei mercati agricoli, le previsioni del tempo, il proverbio friulano. Appuntamento domani alle 8:50 su Radio 1 Rai con Vita nei Campi. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. E questo è tutto per questo giornale radio che è stato redatto e condotto da Francesca Terranova e Nada Cioc, con la collaborazione tecnica di Mauro Ciccarelli. Federico Comar ha collaborato in redazione, Cristina Polselli. Da tutti noi l'augurio di un buon sabato pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.